il momento cruciale di un film giallo piuttosto recente è costituito dall'analisi di un filmato. Il film era Sollevante di Philip Kaufman e il filmato oggetto di analisi mostrava quel che a prima vista sembrava l'omicidio di una bella bionda. I personaggi del film allora sono due, o almeno sembrano due: la vittima e il suo carnefice. Ma l'analisi scrupolosa del documento rivela che, grazie a manipolazioni computeristiche, un terzo personaggio presente sulla scena è stato cancellato. L'esperto analista si è insospettito di minimi dettagli nella grana dello sfondo ed ha così potuto appurare che un'intera figura umana era stata risucchiata via dalla realtà che quel filmato rappresentava. Sull'ultimo numero delle Scienze, un articolo di William Mitchell chiarisce i termini della questione. Con la nuova tecnologia digitale per l'elaborazione delle immagini, qualsiasi valore di verità documentaria è praticamente perso. Mentre il vecchio cosiddetto fotomontaggio, per quanto realizzato da abili mani, era pur sempre denunciabile come tale, la manipolazione digitale ottiene risultati straordinari in cui il falso non è più distinguibile dal vero. Mitchell porta un esempio spiritoso di tre fotografie che ritraggono George Bush e Margaret Thatcher. Mentre le due persone rimangono assolutamente identiche in ogni posa, cambiano le distanze e le posizioni tra loro. È anche la dimostrazione di quanto la prossemica abbia da dire in materia di comunicazione. Negli spazi che occupiamo in un colloquio, nelle posizioni che reciprocamente assumiamo in un dialogo, sta la chiave dei valori e delle opinioni che ci guidano, sta la testimonianza indiretta dello stato dei rapporti che governano gli interlocutori. Nella prima fotografia, dato l'orientamento fisico dei due corpi, la distanza che separa Bush dalla Thatcher sembra suggerire che i due stiano semplicemente colloquiando. Nella seconda fotografia, gli stessi corpi sembrano interpretare un litigio in atto. E nella terza, ancora gli stessi corpi, ravvicinati nella maniera opportuna, sembrano intenti in un intimo colloquio affettuoso. Il risultato è straordinariamente verosimile. Ma perché è straordinariamente verosimile? Non certo per la semplice trasposizione dei corpi, ma piuttosto perché ad essere trasformato in ciascuna fotografia è l'intero contesto in cui la scena si svolge. In un contesto, per esempio, a seconda della posizione dei corpi, si creano ombre diverse sul terreno. Se siamo sull'erba, per fare un altro esempio, quella su cui si è appena camminato apparirà più schiacciata dell'altra dove i passi dei protagonisti non hanno pesato. Così anche la diversa disposizione di un corpo consentirà di vedere quel che prima non si sarebbe visto dello sfondo e al contempo non consentirà di vedere quel che nella disposizione originaria si sarebbe invece visto. La manipolazione digitale consente, in altre parole, di ricostruire l'intero contesto nulla escluso. Il software può delineare o sfumare bordi, far corrispondere esattamente toni e colori e riprodurre trame. La superficie impeccabile che fino ad oggi si esigeva per dichiarare un documento visivo autentico rientra fra i risultati artificiali facilmente ottenibili. Mitchell dice che per dimostrare la frode d'ora in poi ci si dovrà appellare alla coerenza interna oppure alla sicurezza della fonte o alla rispondenza alle aspettative. Beh, tre criteri che palesemente non si riferiscono ad alcunché di empirico. Se vedo una fotografia e presumo di sapere chi e quando l'ha fatta e come è arrivata fino a me, e se questa fotografia rappresenta un insieme di oggetti o persone o una situazione che ritengo coerenti fra loro e compatibili con quanto so di loro, ecco che allora sembrerebbe legittimo potersene fidare, attribuirle un qualche valore di realtà documentaria. Se ci si pensa su, ci si accorge che questo giudizio di realtà non ha più nulla a che fare con che sia di empirico. È questione di storia e di categorie. Siamo dunque alla fine di un'epoca. Alla fine di un'epoca e alla fine di un mito. L'immagine ed il suo valore di documento vanno a farsi benedire. La carta d'identità, il passaporto o la patente come prova di un rapporto inoppugnabile tra un individuo in carne ed ossa ed una certa sua storia codificata, presto, molto presto allora, non saranno più documenti. La foto sul giornale e il filmato televisivo subiranno lo stesso destino. Quando non c'è più la possibilità di distinguere tra fiction e documento, nulla potrà ricevere un valore superiore a quello conferito alla fiction. Per identificare qualcuno e storicizzare qualcosa, ci si dovrà affidare ad altri criteri. I processi di valorizzazione indotti dal potere su chi deve obbedire ed essere lieto di obbedire dovranno concretizzarsi allora in grazia di nuove furbizie.